140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Sony Music, Milano. 20 anni di musica per Gianluca Grignani. Li festeggia con un album di duetti e hit e con Una strada in mezzo al cielo. 20 anni in una canzone. 20 anni in una canzone, è bello, delicato, importante. Quanto c'è emotivamente in una canzone che deve contenere 20 anni? Non deve essere troppo pesante, perché per dire deve essere una sensazione. E qual è la sensazione più bella che se ti sei innamorato, se ti innamori veramente ti cambia la vita, perché vuol dire che spesso hai dei figli, ti sposi e le cose cambiano. Ecco, quindi ho raccontato una storia d'amore. Una storia d'amore che è partita 20 anni fa ed è arrivata a oggi. E dentro la storia d'amore ci sono le vite degli altri e anche la mia. Ovviamente io poi ho aggiunto particolari della mia personale, però molti ho cercato di dire delle cose che sono successe a tutti fondamentalmente, no? Cose che sono comuni a tutti in una storia d'amore. Sperando di non essere stato banale, con quello mi sono fatto aiutare dalla musica. Frammenti di tempo lasciano la scia. Profumo che non va più via. Ma cosa mi hai fatto mai? Che mi dai brividi alla pelle, che mi hai fermato sotto le stelle. Ma come mi hai guardato, lo sai, quel giorno su un vetro, che non riesco più a tornare. Senza te, lo sanno tutti che sono una strada in mezzo al cielo che non sa dove va. 20 anni di vita, di carriera e di rapporto con il pubblico. Hai detto una cosa molto bella nella conferenza stampa che ha preceduto questo incontro. È stato un amico cameriere a dirti la frase che ti ha illuminato sul rispetto per il pubblico? Sì, è stato un mio amico che, tra l'altro, un amico proprio, perché io non ne ho pochi di amici, che mi ha detto, mi ha fatto capire così, frequentandomi, che io devo, cioè che la gente ti vuole bene, però tu gli vuoi bene alla gente, perché la gente non lo capisce, come no? Io ho un grande rispetto, allora faglielo capire, mi ha detto, perché non si capisce. E poi lui, col suo atteggiamento, perché lui quel tipo di atteggiamento me l'ha insegnato, ho imparato da lui frequentando, si chiama Alfonso. È grande Alfonso allora. E allora sai che c'è. Date in club, date anche a sorpresa, per tornare vicini alla gente, per riscoprire il contatto con le persone. No, in realtà proprio facciamo, cioè decidiamo da un giorno all'altro di andare in un club, non diciamo niente, all'ultimo minuto vado con la chitarra acustica e basta. Poi dopo ci saranno i concerti reali, che sono il 1 dicembre a Milano e il 3 dicembre a Roma, che si chiamano Rock 2.0. E che sono poi quelli veramente da lì poi partire la tournée. E queste cose invece sono cose che faccio io en passant, che mi piace, perché è divertente, perché e poi stanno funzionando, li riempiamo dovunque, insomma. Suoni le canzoni anche del tuo passato, anche in questo disco, esattamente come le volevi? Sì, le suono perché, soprattutto quelle del primo disco, perché il primo disco ovviamente mi hanno prodotto, è un ottimo disco, meraviglioso, al cui debbo tantissimo, ma debbo tantissimo anche alla casa discografica, che ho guadagnato un sacco di soldi. Io i miei arrangiamenti li avrei visti più così su quelle canzoni. Qui poi sono in acustico, quindi ancora in maniera diversa. Sicuramente dal vivo io suono così, sempre suonate così. Guardami, ho già spiccato il volo. Ed ora sono proprio sopra casa tua. Ma il fuoco va senza catene. Fuggia gli sguardi, sa che conviene. È indifferente, sovola già tutte le accuse. Boschi e città, e io che sono un falco a metà. Hai detto in particolare nel pezzo che hai rifatto con Luca Carboni, hai riscoperto una canzone, quindi ha ridato nuova vita a un pezzo. No, mi ha ridato una nuova vita a me. L'emozione che ha messo in quella canzone io non so più mettercela. E mi ha fatto. Ho detto che Luca ha qualcosa. Mi hanno chiesto prima che cosa invidi di tutti. E ho detto di Luca invidio una scintilla che spero di avere ancora. E che lui ce l'ha viva, vibrante ogni istante. L'ho visto anche l'altro giorno. Adesso non ho, mi piacerebbe conoscerlo di più anche come amico. Lui, secondo me l'ha cantata meglio di me. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Gianluca Grignani. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.